America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Серце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Beh, Vladimir Putin ha dato un messaggio chiaro, accolto di sorpresa in molti, perché ci si domandava quale fosse il significato tattico di questo suo messaggio, un messaggio così di conciliazione nei confronti dell'America, dell'Occidente, un messaggio per diminuire la tensione, per evitare che i separatisti russi tenessero il loro referendum l'11 di maggio, un messaggio per annunciare che ci sarebbe stato un ritiro delle truppe russe schierate ai confini, dei carri armati russi schierati ai confini con l'Ucraina. Le cose non sono andate esattamente così, perché i ribelli prorussi in Ucraina hanno detto che loro terranno lo stesso le elezioni, il referendum, scusate, l'11 di maggio per votare l'annessione alla Russia. Ecco, questo è lo sviluppo più importante e lo sviluppo che si aspettavano gli americani. Vladimir Putin riesce dal suo punto di vista a fare la figura dell'uomo di Stato prudente, che si ritira, che fa un passo indietro, che cerca con saggezza di convincere questi suoi compatrioti, quantomeno per etnia, linguaggio, a fare un passo indietro di nuovo sul fronte delle elezioni, e poi davanti al Movimento Popolare lui stesso non potrà arrestarsi. Cosa succede adesso? Beh, succede che è inevitabile che la tensione tra il governo provvisorio dell'Ucraina, che ha istituito elezioni per il 25 di maggio, elezioni che dovrebbero fare chiarezza, stabilizzare la situazione, portare una riforma costituzionale con una decentralizzazione dei poteri alle regioni con minoranze russe, perderà di valore, non si terrà. Se l'11 di maggio ci sarà un referendum, beh, a quel punto con quel referendum, dal punto di vista dei ribelli e dal punto di vista di Mosca, esattamente come era successo con la Crimea, sarà successo qualche cosa che evidentemente consentirà, autorizzerà a prendere una direzione, una strada diversa rispetto a quella che propongono gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la strada del dialogo, la strada della riconciliazione nazionale, la strada delle elezioni molto presto per dare legittimità. Ma ho proprio qui con me ai microfoni di America 24 un esperto di relazioni est-ovest, perché ne è stato poi protagonista nei viaggi addirittura di Ronald Reagan con Mikhail Gorbachev, Roberto Pesenti, ex corrispondente degli Stati Uniti del Messaggero, ex compagno di viaggi, di molti viaggi. Buongiorno Roberto. Buongiorno Mario e buongiorno a tutti voi. Beh, molti viaggi Roberto, nei tempi della guerra fredda vera, quindi io ti chiederei di cercare di fare un confronto tra quei giorni in cui noi abbiamo seguito l'evolversi della fine della guerra fredda e del tentativo di dialogo e quello che sta succedendo oggi. Ecco, qual è la tua sensazione tornando adesso in America? Sono tornato in America e mi è capitato nei giorni scorsi di stare all'università di Yale, a New Haven, e ho avuto modo di parlare anche con alcuni esperti di politica estera e alcuni esperti soprattutto russi che si trovavano a Yale. Rispetto agli esperti russi che io e te, Mario, conoscevamo, e cioè i cosiddetti cremlinologi, quelli che avevamo incontrato in tanti viaggi e che ci davano sempre un'opinione su che cosa avveniva in Russia, questa volta nemmeno gli esperti russi che insegnano all'Università di Leningrado ed anche a Yale sanno dire che cosa esattamente sta nella testa di Putin. Ma quindi più si va avanti più si va indietro. Ti devo dire che parlando nell'ultimo viaggio che ho fatto in Europa col presidente Obama, con Ben Rhodes, con uno dei numeri uno del Consiglio di Sicurezza Nazionale, dice: ma sì, in effetti noi siamo un po' sperduti, perché lì alla fine decide soltanto Putin, è lui che decide, e sapere esattamente che cosa ha nella sua testa è difficile. Più si va avanti, più si va indietro, Roberto? Ricordo adesso, visto che sei stato così gentile oggi da invitarmi qua, che quando seguivamo le fasi finali del confronto tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, avevamo quasi sempre il polso della situazione. Sapevamo chi all'interno del Politburo o all'interno della Casa Bianca era tra i falchi e chi era tra le colombe. Questa divisione, ripeto, riporto la mia impressione da questo incontro con questi professionisti dell'analisi politica dei rapporti che stanno crescendo in Russia, oggi non c'è più. Non ci sono più falchi e colombe, c'è soltanto un uomo. Vladimir Putin, un tenente colonnello del KGB, che riassume in sé, mi dicevano, tutto il potere che oggi esiste nell'Unione Sovietica, in Russia. E quindi non sappiamo che cosa succederà domani. Un lapsus freudiano, naturalmente, perché in effetti molti dicono che siamo tornati alla Guerra Fredda e che Putin così cerca di rispolverare le glorie del vecchio impero sovietico. Ecco, è su questo che vorrei sentire la tua opinione, Roberto, perché ascoltando commenti dall'Italia, leggendo su Twitter magari dei messaggi che mi mandano e così via, ho come la sensazione che ci sia un aspetto eroico di Vladimir Putin che viene molto apprezzato. Come la pensi? La penso, ancora qui riferisco quanto mi è stato detto, ho avuto questa lunga conversazione con questo gruppo di russi. Dal punto di vista di coloro che stanno in Russia, i movimenti negli ultimi 10 anni dell'Occidente in Europa sono stati troppo stringenti, hanno avuto paura, e Putin è riuscito a convincere parte dell'opinione pubblica russa che si stava avvicinando troppo l'Occidente ai suoi confini. Questa operazione, dal punto di vista della comunicazione, gli è andata bene, ha fatto capire ai suoi, o ha fatto provare ai suoi concittadini, l'idea che c'era un cerchio che si stava stringendo intorno ai confini. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho ancora qui con me Roberto Pesenti, mitico, leggendario corrispondente del Messaggero, compagno di mille viaggi. Roberto, sei di nuovo in America, cosa ti viene in mente, cosa vogliamo lanciare come canzone del giorno? Fallo tu. Una canzone dell'ottimismo americano, di chi va sempre avanti, di chi non si spaventa, perché qui comincia sempre l'avventura dall'America. Chuck Berry, Johnny B. Goode. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.